che privilegio partecipare alla trasmissione più cool in circolazione. Grazie ragazzi. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Pronto? Sì. Manenti? Sì. Buongiorno, redazione di Radio 24, sulle 24 ore, sono Capuano. Sì, buongiorno. Buongiorno. Manenti, volevo chiederle se domani conferma che incontrerà il sindaco o se non c'è ancora conferma di questo incontro. Linea di massima sì. Quindi linea di massima domani vi vedrete? Sì, sì. E conferma anche che è in grado di garantire, come ha detto in queste ore, che domenica il Parma giochi? Mi senti di dirlo, come ho detto da domenica. Ma dovranno pagarsi i giocatori la trasferta o c'è un sistema, diciamo, tradizionale di garantire questa partita? No, è già, dovrebbe essere già a posto. Ascolti, tutti le chiedono di portare i libri in tribunale. Ci aiuta a capire perché non lo fa? Cioè, da cosa le nasce la convinzione di riuscire ad avere un piano per il Parma? Abbiamo un piano preciso. Che è ancora attuabile? No, perché leggiamo tutti i giorni sui giornali i fornitori, i collaboratori che chiudono ogni rapporto. Diciamo questo fa parte, diciamo, tra virgolette, del gioco. Quindi è normale, fisiologico, sta dicendo? Sono stati buoni per 2 anni, è chiaro che nel momento in cui, e non capisco però, uno si è mosso e lo muove tutti. Questo Manenti, pochi minuti fa, prima che cadesse la linea telefonica, l'avete sentito, era in macchina, chissà per andare dove, magari ancora a sbloccare i bonifici dalla Slovenia. Prima che cadesse la linea, peccato, perché qualche altra domanda ce l'avevamo, ad esempio se è vero che sta viaggiando a spese del Parma, ad esempio se ha notizie di un'inchiesta per reati fiscali aperta dalla procura di Parma. Purtroppo è caduta la linea, magari poi ci proviamo. Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Daniele Buonamici in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. 800 24 00 24, se volete telefonare, siamo qui per parlare di questo giovedì di Europa League in cui cerchiamo il pokerissimo, ma dove non possiamo non parlare del Parma, perché mentre lo avete sentito Manenti dice domenica si gioca e il Parma poteva anche giocare contro l'Udinese, non capisco perché i fornitori se ne vadano, i collaboratori mi facciano causa. Mentre Manenti dice questo, ora dopo ora si sta vivendo l'agonia del Parma. Ieri addirittura messa all'asta una parte dello spogliatoio di Donadoni. C'è un'intervista di Melli oggi sui giornali, Alessandro Melli, ex team manager del Parma, che ha paragonato la situazione di questi anni a quella del Titanic. Io ho sempre paragonato il Parma dell'anno scorso come un Titanic. Tutti viaggiavano in prima classe, sotto però c'era tutto quello che sta emergendo adesso. È bastato uno scoglio, che è la licenza UEFA, a far venire fuori tutto quello che si sapeva, che tutti sapevano lì dentro. E tutti sapevano, ma nessuno denunciava. E magari tanti sapevano anche che Ghirardi stava trattando con Taci, conosciuto nel mondo del calcio, e che oggi tutti dicono essere qualcuno che ha preso il Parma, non si capisce perché. Ancora Melli su un episodio che ha raccontato di qualche anno fa con Tommaso Ghirardi. Sono stato il 2010, allenatore era Guidolin. Lui dopo una vittoria, preso dall'entusiasmo con la squadra, promise un premio pari a 100.000 euro. Tempo qualche giorno mi chiese a me se glielo potevo imprestare, perché lui non ne aveva. Questo Melli, poi il Parma in realtà a questa stagione è stato iscritto perché rispettava pienamente i parametri, le regole della Covisoc e quindi era perfettamente tenuto a fare questo campionato. Però mi interessa sapere cosa ne pensate. 800 24 00 24. Mi interessa anche sapere cosa ne pensate della posizione del Cesena. Poi parleremo con il presidente Cesena, che ha detto: noi, se c'è da votare per dare un aiuto al Parma a finire la stagione, voteremo no, perché le regole vanno rispettate. Ha ragione il Cesena o hanno ragione tutti gli altri che vogliono in qualche modo cercare di preservare una piazza storica come quella di Parma? Intanto si organizza la trasferta di Genova, Preziosi ha messo a disposizione il pullman, l'hotel a spese sue, il capitano del Parma ha detto grazie no e poi se l'è un po' presa con la Lega Calcio. Veramente oggi della Lega non si è fatto vivo nessuno, questo è un altro dato molto significativo di quanto gli interessa il problema Parma. E per il 6 marzo è stato fissato un incontro in Lega che prevede appunto di parlare del caso Parma. Il 6 marzo è tardi, molto tardi, quindi è bene che forse anticipano l'assemblea. Assemblea che resta fissata al 6 marzo. Parliamo di calcio giocato, dicevamo giovedì bellissimo oggi, ne abbiamo 5 in corsa per l'Europa League. Cerchiamo qualcosa di storico, perché soltanto la Germania, allora Germania Ovest 1979-1980, riuscì a portare 5 squadre prima negli ottavi di finale, poi nei quarti di finale della Coppa UEFA e alla fine fu anche capace di portare 4 semifinaliste su 4. Noi oggi ci proviamo, il Napoli è già qualificato, poi ci sono le imprese che devono tentare il Torino, la Roma, anche la Fiorentina, c'è l'Inter che ha i favori del pronostico. Ci sono gli occhi di tutti su Rotterdam, perché abbiamo ancora nella mente quello che è successo una settimana fa a Roma. Poi andremo a Rotterdam con il nostro Pierluigi Pardo. Però sentite cosa ha detto ieri Totti, parlando anche delle scelte greche di fermare il campionato per le questioni di violenza negli stadi. Io mi diverto sul campo. Le immagini che sono esterne, penso che è un'immagine bruttissima per tutti. Per me dovrebbero fare come hanno fatto in Grecia, prendere dei seri provvedimenti, oppure multare o fermare le società di questi tifosi che fanno questi casini. Perciò sicuramente diventerà tutto più semplice, però purtroppo in Italia non succederà mai una cosa del genere. Questo Totti, poi parliamo anche di Alonso che è tornato a casa, la McLaren smentisce per l'ennesima volta se sia trattata di una scossa elettrica. Tutti convocati. Una svolta nella stagione, perché vincendo domani passeremo il turno, torneremo alla vittoria, acquisiamo fiducia dei propri mezzi, perciò affronteremo la Juventus in maniera diversa e sicuramente potrebbe cambiare la stagione. Roma non fa la stupida stasera. Perché il giocatore quando vince acquista fiducia, acquista voglia di dimostrare ancora di più i propri mezzi. No, vabbè, tanto vinco domani, poi se vinco domani vinco pure lunedì. Siamo di qua per vincere, no? Se non mi piace. Roma non farà stupida stasera. Perché se l'impresa più grande è quella del Toro, che dovrebbe vincere a Bilbao dove le italiane non hanno mai vinto in Coppa, e l'ultimo è stato il Napoli che si è schiantato quest'estate nel preliminare di Champions, c'è da dire che anche la Roma è davanti a un ostacolo non da poco. Direttamente dalla redazione di Gazzetta TV, Paolo Condò. Ciao Paolo. Ciao, buongiorno. Abbiamo visto che hai un futuro televisivo. Hai visto che roba? È molto divertente, devo dire. No, molto ancora visto. Tu quando è che vai in onda? Io vado in onda domani sera, c'è la prima puntata alle 21.35 di Condò Confidential. Però parli con Mourinho, perché tu ti occupi di Champions League. Sì, c'è un'intervista con José Mourinho registrata qualche giorno fa, che penso possa essere molto interessante, non soltanto per i tifosi dell'Inter, ma per tutti i tifosi italiani. Non male nemmeno questo giovedì, non solo per i tifosi dell'Inter e nemmeno solo per quelli della Roma, ma un po' per tutti noi italiani. Beh, 5 squadre in una coppa, diciamo in Coppa UEFA, a me piace ancora chiamarla così, sono passatista in questo. E, vabbè, 5 squadre nell'Europa League, come si chiama adesso, e, sono una pattuglia molto nutrita. E io spero, ma non è soltanto una speranza basata sul desiderio nazionalista, ma anche su alcuni ragionamenti tecnici, spero che fra queste 5 squadre ci sia la vincitrice dell'Europa League, perché se già per esempio la Fiorentina compirà l'impresa che è diventata possibile dopo l'eccellente andata di fare fuori il Tottenham, una delle 4 o 5 squadre secondo me del livello delle nostre migliori, esce di scena e quindi sì, ne toglie una, ne, una di meno, ne toglie una potenziale. Detto che sogniamo tutti il pokerissimo, sogniamo la manita, chiamatela come volete, ma se questo turno durasse 90 minuti e non 180, noi ne porteremo avanti 3 su 5, e alcune imprese, partendo dal Torino, ma anche la Roma, direi Paolo, sono vere imprese in queste partite di ritorno. Ma il Torino sì, il Torino sarebbe una grande impresa. L'Athletic Bilbao non è più la squadra di inizio stagione quando fece fuori il Napoli nel preliminare di Champions, e questo aumenta, devo dire, i rimpianti del Napoli, perché allora l'Athletic Bilbao sembrò un ostacolo troppo alto, mentre poi in realtà non era così. E però comunque ti devo dire che San Mamés, partendo dal 2-2 dell'andata, quindi il Torino sostanzialmente dovrebbe vincere, sarebbe un'impresa, non impossibile, ma sarebbe veramente, cioè, credo che siamo sul 70-30 in favore dell'Athletic Bilbao. Per la Roma no, sono più ottimista. Per la Roma sono più ottimista perché il Feyenoord in casa sua si dovrà aprire, perché non è uno squadrone assolutamente, e perché la Roma da qualche punto deve ripartire, perché la Roma praticamente è dalla gara col Bayern casalinga, dal famoso 7-1, che ha interrotto un discorso, e via via si sono sgretolate tutta una serie di... Sì, ha staccato la spina dal si punto sono, di vista mentale. Praticamente, io dico sempre, come un asino che vola, però vola. E a un certo punto qualcuno gli dice, ehi, sei un asino, non puoi volare. E soltanto in quel momento si rende conto. E calma, finché nessuno glielo diceva, continuava a volare, volava benissimo. Sì, il re è nudo. Credo non sia un caso, Paolo, che sì, questa sera Garcia poi si affidi a quegli uomini lì dentro, tutti, Totti, De Rossi, sì, certo, Nainggolan, certo. Pjanic, Gervinho. Totti in conferenza stampa anche è un segnale molto, che ci va veramente, è un segnale molto preciso, un'assunzione di responsabilità, è una chiamata a tutti quanti, perché ognuno dia il suo e torni quello che è. Pjanic, per esempio, che secondo me è un giocatore di qualità estremamente elevata, è sparito dopo la partita col Bayern, e quindi questi sono evidentemente dei problemi mentali. Poi sono venuti gli infortuni, lo scadimento fisico, la stanchezza, però tutto quanto nasce da quella maledetta partita, e quindi ci deve essere un'altra benedetta partita dalla quale ricominciare, e potrebbe assolutamente essere questa di Rotterdam. Senti, Montella ha detto che non gioca per lo 0-0 perché non è nelle corde della Fiorentina. Secondo me fa benissimo, perché probabilmente si condannerebbe al rischio di una beffa. Però attenzione, perché è vero che la Fiorentina si è guadagnata con l'1-1 a Londra il diritto di entrare con 2 risultati su 3, però quei 90 minuti là hanno anche detto molto bene alla Fiorentina. Sì, il Tottenham è una squadra forte, c'ha i giocatori, perché Kane, Eriksen, Shadley, Lamela sono tutti giocatori, diciamo, a parte Kane che è un fenomeno che stiamo ancora scoprendo, per il momento i suoi limiti non sono noti, gli altri si sa che sono giocatori non della fascia eccelsa, diciamo quella Real Madrid, Barcellona, Chelsea, Bayern, ma quella immediatamente sottostante. E quindi, cioè, il Tottenham era una squadra che poteva tranquillamente fare la sua figura anche in Champions League. E ha battuto il Chelsea recentemente, lo affronterà domenica nella finale della Coppa di Lega. E ha un allenatore, Pochettino, che secondo me prima o poi vedremo anche in Italia, perché mi pare molto portato. Bravo, veramente bravo, grande organizzatore di squadre. E quindi la Fiorentina, anche se gioca in casa, anche se parte dall'1-1 di White Hart Lane, gli do 51 possibilità. Sì, 51, difficile andare oltre. Vedremo anche se i tifosi della Fiorentina questa sera saranno così intelligenti da non contestare netto, perché il calcio è meraviglioso, regala anche queste storie. Un mese e mezzo fuori rosa, andrà la Juventus, la squadra più odiata, arriva la partita della stagione, si fanno male tutti. Chi deve giocare, deve giocare netto. Tu che conosci il mondo del calcio e frequenti gli stadi, cosa ti aspetti? Mi aspetto un bel duello fra un po' di gente che lo fischierà e altra gente che cercherà di zittire i fischi. Non mi aspetto un atteggiamento unitario da parte dello stadio, naturalmente spero che prevalgano I secondi, anche per la tranquillità psicologica di Neto. Sì, sarebbe un suicidio. Assolutamente. Per chiudere, a proposito di suicidi, un mezzo suicidio è stato sicuramente quello dell'Inter settimana scorsa a Glasgow. Oggi poteva affrontare una specie di amichevole 3-3, Inter che parte con i favori del pronostico, però la squadra di Mancini, lo ha detto anche Roberto, è una squadra che è destinata a soffrire. E quindi... Sì, e quindi deve giocare la partita ricordandosi due cose. Uno, è più forte, l'Inter è più forte, lo ha dimostrato, ma tanto più forte, non un po' più forte, è tanto più forte del Celtic. Due, il Celtic non lo sa e non lo vuole sapere di essere più debole, e fino all'ultimo, qualsiasi sarà il risultato, giocherà, perché è una squadra scozzese, ha un orgoglio che gli esce dalle orecchie. Io adoro le squadre scozzesi per questo motivo, in generale le britanniche. Queste sono squadre che le devi piantare il paletto nel cuore. Sì, devi sbrigarla in fretta e questa volta possibilmente non riaprirla, come hai fatto una settimana fa sul 2-0. Poi ti do una notizia: Pirlo fuori 20 giorni, salterà anche il ritorno a Dortmund contro il Borussia. Il polpaccio è una brutta bestia. Secondo me anche quel 2-1 è una brutta bestia. Detto che la Juve ha giocato bene, esce anche più forte da questo primo confronto con il Borussia Dortmund, però poi quando tu regali un gol in casa ti esponi a un ritorno da inferno. Senza Pirlo sarà un po' più difficile. Sarà un ritorno d'inferno, però se tu vuoi andare avanti in Champions League devi attraversare degli inferni, non è che non sono passeggiate di salute, sarebbe anche abbastanza noioso se lo fossero. Io al gol di Royce ti dirò, do soltanto l'importanza numerica che ha, cioè vale un gol, perché sono, secondo me, segneranno tutte e due. Sì, vale un gol, potrebbe valere doppio, la famosa filastrocca delle coppe. Sì, però se fosse in 1-0 per il Dortmund varrebbe doppio, e io mi vedo molto più una partita da 3-2 o da 4-3 che da 1-0. Grazie Paolo. Buona giornata. Grazie Paolo Condò da Gazzetta TV, dai, perché poi da domani sera il nostro Paolo Condò lo vediamo anche in televisione, oltre a sentirlo e a leggerlo. 800 24 00 24, c'è chi dice, caro Totti, se tutti dovessero fare come in Grecia, in Italia i primi stadi da chiudere sarebbero quelli di Roma. Non lo so, se avete un'opinione. Enzo da Modena. Enzo, eccoci. Pronto, ciao Giovanni, grazie per la convocazione. Grazie a te, niente, prego. Giusto una battuta, era il primo stadio da chiudere sicuramente quello di Roma, anche ricordando la vicenda che poi tra altre cose la Roma non c'entrava, visto la finale di Coppa Italia che riguardava che la famosa vicenda. Non c'entrava diciamo nulla direttamente, prego. Ma assolutamente, poi su Totti ho molto da dire. Sicuramente non come giocatore di calcio, ma come probabilmente come un fautore di probabile violenza, perché le dichiarazioni che si fanno alla stampa, specialmente quando si perde, vado a riprendere i fatti di Torino, no? Quindi non è che alimentano, sai, delle scampagnate. Sì, però io ridimensionerei anche un po' il discorso, anche perché noi abbiamo imparato in questi anni, dentro gli stadi, fuori dagli stadi, quando succede qualcosa è spesso per logiche che hanno poco a che fare con l'evento sportivo, secondo me comprese anche le polemiche. Poi, per carità, un po' di prudenza andrebbe bene da parte di tutti, a partire da allenatori, giocatori, presidenti, dirigenti, giornalisti, ci metta chi vuole, Enzo. Però io ridimensionerei un po' questo legame diretto tra quello che dice Totti e possibili episodi di violenza. Carlo da Roma, riusciamo a farlo prima della borsa? Pronto. Carlo, eccoci. Pronto? Prego. Sì, ciao, grazie per la convocazione. Io ti sento assolutamente sul salvataggio del Parma. Mi spiego. Quanti imprenditori abbiamo visto portare in lievi tribunale un giudice in 30 giorni dichiara fallimento di un'azienda? Perché non farlo nel calcio? Sì. Attenzione, non voglio fare il qui si sta parlando qui si sta parlando comunque di un fallimento pilotato per salvare il titolo sportivo a Parma, in questo senso salvataggio del Parma. Prego però Carlo. Lo capisco, però le leggi devono essere uguali per tutti, nel senso che quando un imprenditore oggi ha la possibilità di fare un concordato preventivo, tu mi insegni che è un fallimento pilotato. In questo caso non esiste la possibilità di poter salvare questa squadra. E una cosa che voglio aggiungere, non faccio il moralista sui calciatori, basta che la Lega crei un fondo dove verrà riconosciuto a calciatore un anno del suo stipendio contrattuale, lì si lascia liberi. Non voglio parlare di giocatori pagati, strapagati, sono dei dipendenti, sono dei lavoratori ed è giusto che abbiano un fondo di protezione anche loro. E di conseguenza, se la società deve fallire, va fatta fallire. Sì, ma questo può essere, questo può essere assolutamente un'idea per il futuro. Le norme sportive però prevedono che si possa tentare di salvare il diritto sportivo di un club che va incontro a un fallimento pilotato, quindi non c'è niente di fuori dalle regole. Può essere fuori dalle regole quello che invece verrebbe fatto in questi due mesi per aiutare il Parma a finire la stagione, e difatti c'è chi è contrario, ma poi abbiamo modo di parlarne. 800 24 00 24 Borsa. Fate le due risate, li vedete tutti seri. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Give me five. Durante la partita sì, tutto è a posto, possiamo gestire, ma all'inizio dobbiamo pensare che abbiamo un vantaggio chiaro, ma che ancora dobbiamo farlo come si deve fare. Give me five. All right. Io credo che insomma ci sarà abbastanza gente che possa aiutare la squadra, che comunque la partita non è una partita così semplice, non puoi sbagliare quasi niente, perché comunque gli scozzesi non mollano mai. Give me five. All right. Bisogna avere lo stesso coraggio, la stessa intensità per tutti i 90 minuti, o forse più, e avere un po', riuscire ad essere anche un po' più risolutivi, soprattutto nell'ultimo passaggio. Ecco, c'è quello che ci è mancato un po' all'andata. Sono estremamente curioso di fare questa partita, oltre che estremamente voglioso. Perché? Perché è una verifica estremamente importante, è una verifica sul piano della personalità, è una verifica sul piano delle capacità, è una verifica sul piano della mentalità. Sappiamo che Feyenoord è una squadra che ha qualità. La qualità tecnica, riparte indietro, fa dei rilanci corti, ma abbiamo anche avuto abbastanza occasione nella partita d'andata per sapere che domani dobbiamo essere ambiziosi. Questo è il riassunto della nostra notte. 800 24 00 24. Fra 5 minuti andiamo a Rotterdam da Pierluigi Pardo. Massimo da Brescia, Massimo. Sì. Eccoci. Pronto? Prego. Sì, buongiorno. Prima di tutto grazie a lei alla trasmissione per avermi fatto intervenire. Grazie a te, Massimo. Prego. A me la mia domanda, io chiamo da Brescia, la mia domanda era più una curiosità, visto che la situazione Manenti noi in un recente passato l'abbiamo vissuta. Ci siete già passati, sì. Ci siamo già passati, poi alla fine non è mai diventato presidente. Mi domandavo, ma qual è l'interesse che una persona può avere a diventare presidente di una società come il Parma, con le difficoltà che sappiamo bene ha, prima di tutto? E in secondo luogo, ma non è possibile che prima di far diventare presidente una persona, non so, in certi tipi di lavori si chiede sempre un discorso di visura, per un discorso di a livello legale, se si è con la fedina penale pulita o no? Non si fanno verifiche di questo genere? Sì, come fanno gli inglesi, Massimo, che difatti ci hanno rispedito indietro Cellino, che notizia di ieri pare non tornerà a essere presidente del Leeds. Non lo so, Tavecchio, se si ricorda, qualche giorno fa ci ha detto il modello inglese mi piace e proveremo a mettere queste regole anche in Italia, regole che però al momento non ci sono. Come Manenti sia diventato presidente del Parma io non lo so, andrebbe chiesto a Taci e forse in parte anche a Ghirardi, anche se Ghirardi ti dice io ho ceduto il Parma a metà novembre e quello che è successo dopo non lo conosco. Che interesse abbia Manenti è un mistero. Purtroppo è caduta la linea, perché era una delle domande che volevamo fargli. Magari poi cerchiamo, Giorgio De Luca, continuiamo a chiamarlo. 800 24 00 24. Pietro da Milano, Pietro. Sì, buongiorno. Eccoci. Niente, niente, volevo, ho sentito un ascoltatore di prima che diciamo che criticava il mio capitano Francesco Totti. Sì. E io trovo assurdo che in Italia invece di, non dico di esaltare perché ognuno ha le sue simpatie, però realmente un giocatore, uno dei più prolifici della Serie A, venga sempre quasi insultato, voglio dire, venga quasi insultato. Sì, ma io credo però, Pietro, cioè, che proprio non sopporto. Pietro, credo che non fosse una critica a Totti giocatore. Totti ogni tanto ha delle uscite che altri tifosi non della Roma non apprezzano. Io credo sia questo il discorso. Sì, no, perché poi, scusi, chiudo, poi sento tanto dire che bisogna tifare l'Italia in Europa, tutte queste retoriche qui, che non esiste nessuno stato al mondo, che il tifoso, come dicevate voi ieri, quello del Chelsea tifa Liverpool, non esiste. Allora diciamo, cioè, se si vuole criticare il giocatore, possiamo dirlo, più forte in attività dell'Italia, lo facciamo. Però volevo solo dire il mio amore, io sono di Milano, tifo Roma solo per Francesco Totti, quando smetterà cambierò squadra, volevo solo difenderlo, ecco, tutto qua. Che fa stasera a Roma? Una battuta velocissima. Sì, prego. Ma la scena di Mihajlovic al derby, mi immaginavo se l'avesse fatta Mazzarri quando l'Inter era un pochettino confusionale, se i giocatori andavano a difendere il giocatore o andavano a dar manforte al giocatore per dargliela all'allenatore. No, non lo so, però Mihajlovic si è scusato, ha detto sono stato preso da un attimo di nervosismo, grazie Pietro. Pier, ci sei? Pier, eccoci. Ciao. Come va? Sì. Bene, a parte che adesso i primi tafferugli non l'hanno, sto scherzando. Sei ancora tutto intero. No, della sì. Difficoltà di dividere in due un conto per due persone al ristorante, quindi ci sarà, che è un tema storico, no? Della differente flessibilità dei ristoratori stranieri, e niente, non c'è niente. Vabbè. Quindi se sentite adesso dalla zona di Hülfan Holland, che è un tafferuto, ci mancherebbe altro, non è che per scherzo. Però, come va? Tutto a posto? Tutto bene, no, tutto perché bene, noi da ieri leggiamo notizie contrastanti, anche preoccupanti sul versante ordine pubblico. Cioè le chiacchiere, come si dice a Roma, le chiacchiere stanno a zero, che bisogna aspettare e capire. Io per ora ti posso dire quella che è la situazione, appunto, aggiornata a 5 minuti fa. La città è militarizzata, ma in maniera direi abbastanza tranquilla, quasi invisibile. Hanno chiuso le strade intorno allo stadio come da norma, c'è un buono spiegamento di forze dell'ordine ovviamente dalle parti dello stadio e c'è spiegamento delle forze dell'ordine dalle parti del Fan Zone, che insomma, volendo, magari per il futuro potrebbe rappresentare una valvola di sfogo anche per noi italiani. Cioè, magari di tutta questa esperienza, se speriamo ovviamente che possa finire bene stasera, io mi auguro che sì. Ci prendiamo questa lezione. Pier, però diciamo la verità, le fan zone non sono una novità di Feyenoord Roma, no, certo, vengono più o meno organizzate sempre. Le piazza di Spagna, tu mi puoi anche dare gli hamburger e le birre, ma insomma il fascino di piazza di Spagna o di piazza della Signoria per andare a Fiorentina Tottenham di oggi è invisibile, molto ironicamente ieri sera quelli della Roma si scherzava sul fatto che, insomma, con tutto il rispetto per Rotterdam, la città di Erasmo da Rotterdam, c'è questa idea meravigliosa, c'è questa presenza dell'elemento dell'acqua, ci sono anche belle cose all'interno dei musei, però insomma è chiaro che una barcaccia non c'è, insomma, per quanto uno si possa anche provare a inventare qualcosa da rovinare, ovviamente sto scherzando, lo dico con chiarezza. No, ma diciamolo, perché sennò gli amici da casa poi si scatenano. Stiamo scherzando. Da Napoli, ecco. Non c'è piazza della Signoria a Firenze. No, assolutamente. Aspetta, fammi salutare Roberto Cravero. Ciao Roberto. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Pier. Pier. Eccoci. Prima del traffico che abbiamo tra un minutino, al di là delle questioni di ordine pubblico, volevo chiedere a tutti e due se ritenete fino a che punto un'impresa fattibile quella della Roma questa sera, Roberto e poi Pier. No, è fattibile perché in questo momento la Roma è pazza, può fare tutto il contrario di tutto, quindi dipende da come entrano in campo. Io sono molto fiducioso, ti devo dire, perché anche all'andata non è che mi è sembrato che il Feyenoord fosse così irresistibile. Penso che è stata la prestazione della Roma che ha fatto rivalutare il Feyenoord. Quindi ogni partita fa storia a sé. Se la Roma è convinta e ritrova quel gioco che però in questo ultimo tempo, in questo lungo ultimi tempi gli è mancato, può fare qualsiasi risultato. Sì, perché il punto Pier è quello, cioè la Roma di inizio stagione probabilmente non avrebbe avuto difficoltà a chiudere il discorso qualificazione già all'andata. Questa Roma è difficile considerarla favorita questa sera. Sì, è difficile considerarla favorita perché l'1-1 in casa non è mai un risultato facile. Insomma, nella storia della Roma c'è un solo precedente di pareggio in casa che è stato ribaltato con una vittoria fuori, che è il famoso Lione-Roma col gol incredibile di Amantino Mancini, no? che ricorderete, 0-0 all'andata, 2-0 al Lione, quindi anche statisticamente non è un risultato comodo. Detto questo, io la penso esattamente come Roberto, cioè io penso che la Roma sia più forte e penso che la Roma abbia ancora il destino della qualificazione nelle sue mani, anche se il caso di giocare con lo 0-0 ovviamente passerebbe il Bayern. Penso sia più forte e penso che nei primi 90 minuti l'abbia dimostrato solo in parte, al di là del gol in fuorigioco subito, e stasera abbia delle possibilità, insomma, e questo è quello che credo. Certo, non è un risultato comodo, perché prima di tutto perché è un risultato che spinge la Roma a dover attaccare, a dover segnare, e la Roma ultimamente ha grossi problemi dal punto di vista realizzativo e spesso nel tentativo di fare gol si scopre e non ha più la stessa difesa dell'anno scorso. Poi c'è la componente emotiva nervosa, la Roma è in difficoltà da questo punto di vista, quindi è chiaro che alla prima avversità ci potrebbero essere anche delle incognite di tenuta nervosa. Detto questo, se esiste una logica, secondo me la Roma ha delle possibilità. Sì, rischia di essere consapevole di giocarsi tutto e magari trovarsi lunedì sera dopo Roma-Juventus senza più nulla nelle mani. Tutti convocati. 800 24 00 24, poi ci sono le parole bellissime secondo me ieri di Ventura, che deve esorcizzare la paura della cattedrale del San Mamés di Bilbao, e ha detto: beh, io non vedo fossati, significa che non ci saranno di certo i coccodrilli qui. Roberto Cravero, notte da grande toro, no. Eh? Sì, beh, ci vuole un grande toro per uscire vincenti questa sera, però secondo me ci stiamo facendo condizionare molto da questo Atletico Bilbao, da questo stadio. Non è che quando vai a affrontare altre squadre anche in Italia, in certi stadi non affronti un ambiente come quello del San Mamés. È una squadra che si trova oltre metà classifica in Spagna, è una squadra che ha perso diverse volte in casa con squadre sulla carta anche più scarse del Torino, quindi il Torino va là a giocarsela. È una partita secondo me apertissima. Poi può anche non passare, perché comunque un 2-2 è un risultato difficile da recuperare, scomodo. Ci sono tanti motivi, ma assolutamente non vedo un Torino battuto. Non vedo un Torino battuto perché il Torino poi non si deve far assolutamente condizionare. Nella sua storia non si è mai fatto condizionare, ha vinto, ha perso, ma ha sempre giocato a testa alta. Sì, Pier, meglio non leggere le statistiche che dicono 8 tentativi degli italiani a Bilbao, un pareggio, 7 sconfitte. Sì, ma contano meglio lasciar stare. Mi sentite bene? Sì, benino. Beh, c'è anche il dottor Di Gennaro qui, è bene che siamo col Bluetooth in macchina, siamo al top. Dottor Di Gennaro, saluta Cravero. Cosa ha mangiato Cravero a Bilbao? Cosa ha mangiato? No, Cravero non è a Bilbao. Roberto, sei a Bilbao? No, sono a Torino. No, sono a Torino, è a casa sua. Poi c'è Torino. Torino c'è a Venaria, ma questa è una vergogna. Dovrò. Sì, Sergio mi sente questa volta. Un'ora e mezzo per un pezzo di baccalà. Sì, c'è un dicenaro polemico con... Cosa avete mangiato voi invece? Cosa avete mangiato voi a Rotterdam? Guarda, noi abbiamo fatto un pranzo simile a quello che avevo fatto ad Alkmaar con il dottor Cravero anni fa lungo il Mare del Nord. Sì. Quindi alimentazione veramente equilibrata. No, tornando alle cose serie, il Toro in questo momento secondo me ha l'affrontatezza di una squadra che comunque sta bene, sta in salute, non ha niente da perdere. Io credo che l'Atletico Bilbao sia un pochino più forte. Penso che all'andata chiaramente abbia giocato con delle assenze duri su tutte che possono pesare, però insomma si vive per notti come queste, no? Ci sono dei momenti della vita in cui tu ti prepari a qualcosa che è un esame e poi te la giochi. E secondo me il Torino ci sta arrivando con l'atteggiamento giusto, l'ho visto anche l'altra sera, mi sembra una squadra in salute, mi sembra una squadra che sta bene, una squadra che sta onorando ovviamente nei limiti di quello che è il suo budget, che non è quello, non può essere quello delle 4-5 squadre top in Italia, ma sta onorando una maglia e una storia meravigliosa. Quindi da questo punto di vista È un'altra grande pagina, Roberto si ricorda la panchina di Mondonico, la grande delusione con l'Ajax. Ma per quello l'abbiamo convocato, perché è una notte da grande toro, Roberto. Sì. Beh, quelli erano altri tempi, ci sono grandi ricordi, grandi sofferenze però, perché se voi vi ricordate l'unica squadra che ha preso tre pali senza aver passato il turno, quindi nella storia ci siamo comunque, non ci saremmo mai voluti entrare per quel motivo, però purtroppo ci siamo. Ma ha ragione Pier, ci sono delle partite che sono, diventeranno poi magari una leggenda, no? E si tramanderanno tra i tifosi, questa è una di quelle. Si affronta sempre a testa alta, con grande rispetto, dando tutto, poi comunque il risultato dirà che ha ragione, ma in queste partite non devi mai finirle con nessun rimpianto, no? Devi aver dato tutto, devi essere convinto di averla giocata al meglio. E poi ti ripeto, il calcio delle volte è crudele, i tifosi del Toro lo sanno, però delle volte si può anche cambiare il destino, no, di una squadra. Visto che c'è un parterre di Pierre, visto che c'è un parterre de Roi, perché c'è un parterre di quello delle giornate belle, vi faccio parlare con Luigi da Firenze. Luigi. Sì, saluto a tutti, grazie. Eccoci. Per avermi convocato. Parliamo di calcio, io sì. Sono un tifoso juventino e stasera andrò a vedere la Fiorentina e tiferò Fiorentina. Vi do anche i risultati di tutte e cinque. Dai. La Fiorentina vincerà 3-1 contro il Tottenham e sarà una sfida bellissima, e vorrei un parere voi su Salah. Poi il Torino vincerà 1-0. Aspetta. Ti dico solo che dice sta toccando ferro ovunque. Sì, De Gennaro tocca ferro. Poi, vai, per quanto riguarda il Torino, vincerà 1-0, l'Inter 3-0. E guardatevi Fiorentina Tottenham, sarà uno spettacolo. Sì, sono goppo. Manca la Roma e manca il Napoli, però, Luigi. Allora, la Roma vincerà praticamente 1-0. Facile. E il Napoli farà 0-0. Napoli farà 0-0. Ti baciamo tutti. Stiamo toccando di tutto, Luigi. Sì. No, però guarda, ti dico che mi piace questo atteggiamento. Guarda, io non ne posso più dell'Italia che si piace addosso a tutti i livelli, anche nel calcio siamo diventati improvvisamente i primi bravi a farci le pulci. Ora che noi tornassimo nei limiti del possibile a vivere a testa alta, perché comunque siamo espressione di un grande paese, di una grande storia. Tornando al discorso dei tifosi, io spero che i tifosi della Roma stasera non abbocchino alla provocazione della settimana scorsa. Dimostriamo che siamo comunque, che apparteniamo a una cultura che riconosce la bellezza come un marchio distintivo della nostra vita, e quindi rispettiamo i monumenti, sì, siamo diversi, le cose. Siamo diversi, senza offendere gli olandesi. Il 99% degli olandesi sono bravissimi, assolutamente. Però una volta che abbiamo, che non siamo noi, grazie a Dio, nel mirino della critica, cerchiamo di difendere questo piccolo privilegio e cerchiamo, insomma, di non buttarci sempre la croce addosso. Sull'entusiasmo del nostro amico da Firenze, magari. Sì, finto juventino, magari. Stanno scrivendo gli amici da casa. Ma guarda, è un finto juventino. Ti posso dire. No, ma stasera tifiamo per tutte le italiane, non c'è Carlo Genta, quindi lo diciamo. Oggi tifiamo per tutte le italiane. No, sai che lui invece è un teorico del tifo contro. No, non è questione del teorico. Allora, secondo me al cuore non si comanda, cioè se un tifoso della Fiorentina vuole occupare la Juve, un tifoso della Juve vuole occupare la Fiorentina, non è che ce lo puoi impedire, anche non è che lo convinci, cioè è quello che il cuore ti dà. Io credo che tutti noi pensiamo e dobbiamo pensare che il calcio italiano, se torna a crescere, se torna a dominare l'Europa, quantomeno a essere competitivo, ci regala delle emozioni. Poi il discorso faceva prima Roberto, io forse perché non sono coinvolto con una squadra, però io penso che poi alla fine nella vita è realmente la quantità di emozioni che hai vissuto. Poi certo, se vinci stai meglio che se perdi, ma poi col passare del tempo anche aver vissuto delle grandi sconfitte, ma delle grandi emozioni, sì, comunque ti dà comunque piazza, soddisfazione, no? Io non penso che Roberto, potendo tornare indietro, quella lì non la rigiocherebbe, sì. Non vorrebbe arrivare, no, a quella finale, non credo proprio, Roberto, no, no, cioè, no, te no, la no, rigiocheresti, no, Pier ha parlato, anche Pier stasera ha parlato benissimo, assolutamente, sono emozioni uniche che ti lasciano il segno, e ha ragione, col passare del tempo poi, anche se il risultato non è quello che avresti voluto vedere, però anche, lo vedi anche come comunque i tifosi ti continuano a ricordare, poi alla fine per una cosa che veramente i tifosi del Toro ha fatto male, quella finale. Però quella squadra lì, nonostante non abbia vinto, nonostante alla fine poi non si può neanche dire che sia perdente, perché quando elimini il Real Madrid e vai in finale con l'Ajax non puoi mai essere un perdente, però non ha centrato non ha messo la ciliegina sulla torta, però ancora adesso è una squadra che tutti ricordano come leggendaria. Sì, vediamo se riusciamo a fare in 30 secondi Antonio da Mantova, poi c'è il GR. Antonio, prego. Eccomi qua, grazie per la convocazione. Rapido. Niente, volevo dire solo, sono d'accordo col tifoso di Firenze, sì. Che secondo me passiamo tutte e cinque. Quella che secondo me avrà più fatica è l'Inter, perché noi siamo così, siamo le partite che le facciamo diventare, sarà difficile l'Inter, incrocio le dita logicamente, ma sarà più dura secondo me. Sì, però la differenza è tanta, o no Roberto, dammi un pronostico secco, quante passano? No, parte l'Inter. Su questo fatto io penso che l'Inter, consideriamo che una è già passata, che è il Napoli chiaramente. Poi io penso che l'Inter non abbia dei grossi problemi, c'è troppa differenza, soprattutto con l'Inter attuale. Una squadra ce la facciamo a portarne 5? Sì. Ma sai, ce lo auguriamo tutti. Io penso che la possibilità c'è. Le probabilità non sono per tutte e cinque, perché Torino e Roma hanno un compito difficile. Però ci auguriamo tutti, 5 sarebbe veramente una grande vittoria per il però questa italiana. Sera facciamo tutti il tifo. Grazie Roberto. Ciao, un saluto a tutti, ciao Pier. Tutti convocati. Manetti, volevo chiederle se si aspetta qualcosa da Lega e Federcalcio il 6 marzo e comunque in queste settimane. Ma no. Cioè non si aspetta nessun tipo di aiuto a chiudere la stagione? Ma vediamo, ci devo parlare ancora. Ma lei eventualmente, diciamo, una mano la chiederebbe? Penso di no, perché andiamo avanti con le nostre forze. Solo nel caso estremo che slitta di qualche giorno, allora dovrò chiedere. Ma lei è ancora fiducioso che i soldi arriveranno, li sbloccherà dall'estero? Cioè è ancora in piedi quel discorso? I soldi ci sono, però non sono ancora arrivati. Ma c'è da fare prima questo discorso. Ascolti, ci sono dei club, pare il Cesena, che dicono che le regole devono essere rispettate per tutti e non si possono fare eccezioni per il Parma. Cosa si sente di dire al suo collega di Cesena? Corretto. Questo significa che non ci può essere un intervento della Lega? Ma se questo lo prevede, non ci deve essere. Lei ha notizie di un'inchiesta della Procura di Parma per reati fiscali? A me non hanno ancora notificato nulla. Oggi si leggeva sui giornali e lei non è arrivato nulla? Ancora no. E faccio un'ultima domanda. Oggi sui giornali si è letto anche che lei non ha messo un euro nel Parma, ma ad esempio per andare in Slovenia settimana scorsa prima ha chiesto i soldi al cassiere del club. Non è vero. Lo smentisce? No, va. Grazie Presidente. Sì, ma dopo lo produrrò anche quello, no? Cioè? Dico, produrrò anche quel documento. Cioè quello che smentisce questa storia dei soldi. Categorico, perché non è servito a quello, è servito per fare le perizie. Quindi, comunque fa niente. Quindi non si è pagato la benzina per andare in Slovenia? Ma no, ce l'ho ancora 10 euro. Ce la fa? ce la faccio ancora. Andare e venire ce la faccio ancora. Ma mi dice che cosa l'ha spinta a prendere il Parma, cosa la spinge a stare dentro questa storia? In fondo lei fino a 10 giorni fa non c'entrava nulla. A me piace il sistema calcio, infatti l'avevo provato già l'anno scorso, mi piace soprattutto la zona di Parma e niente, quindi abbiamo cercato questa avventura. Quindi voleva mettersi dentro il calcio italiano? Sì. Non si è pentito? No, mai. Ma c'è qualcuno che lavora contro di lei? Non lo so questo. Ha il sospetto che sia così? Ma guardi lei. Lei prima mi ha detto dopo 2 anni che erano fermi i fornitori si sono mossi tutti. Ma è corretto, l'ha fatto uno, lo fanno tutti. Di solito è così, no, che funziona. O prima magari si chiama. Si deve, cosa avete intenzione di fare? Invece lei non ha chiamato nessuno. No, io ho provato a chiamare qualcuno, tant'è che qualcuno non si è mosso. Però gli altri magari mi aspettavano almeno una telefonata. Ma non è un problema, non sono polemiche le mie. Lei ritiene comunque di riuscire lei ritiene di riuscire a raddrizzare la situazione? Ma io spero di sì, se non sarei ancora qua. Grazie Presidente. Questa è la seconda parte della telefonata con Manenti. Ve l'abbiamo detto che l'avremmo cercato ancora. Pier, hai sentito? Ho sentito, ti faccio i complimenti perché l'ha incalzato veramente molto bene. Mi sembra che in qualche modo abbia, ci siano alcuni elementi molto interessanti. Al di là del ancora nulla sul discorso della procura, quella ancora che è abbastanza sospetto, chiedo. Sì, chiedo. Poi vedremo, insomma. Vedremo. E poi c'è questa passione per il sistema calcio, che insomma non voglio fare il piccolo Freud, ma credo l'abbiamo pensato tutti, no? C'è cosa possa spingere una persona a buttarsi in una situazione di questo tipo. O c'è un interesse genuino, legittimo di sistemare le cose, l'ambizione di poterlo fare, ed è quello che tutti ci auguriamo, o c'è un discorso di truffa, di riuscire attraverso il Parma, di privilegi, di riuscire attraverso il Parma, truffa la parola grossa, ad avere accesso a determinate risorse finanziarie che magari se non sei presidente non ti danno, però vista la situazione del Parma questo è un discorso onestamente poco credibile. Oppure c'è anche un terzo elemento, e magari le tre cose si mescolano, di visibilità, di passione, di voglia di buttarsi dentro a un meccanismo che comunque con tutti i suoi difetti piace, e pare che da questo punto di vista Manetti sia stato anche abbastanza onesto nel dirlo, sì, no? Avremo molto da leggere, credo, nelle prossime settimane su questa vicenda. Mi fai salutare. Non c'è nulla di nuovo dal punto di vista pratico. No, mi fai salutare il presidente del Cesena, Giorgio Lugaresi. Presidente, buon pomeriggio. Salve, buonasera. Abbiamo fatto ascoltare anche a lei la seconda parte della telefonata di Manenti. Tra l'altro ha detto, ha ragione il Cesena se non è d'accordo che la Lega aiuti il Parma, perché voi non siete d'accordo, mi pare di aver letto oggi sui giornali, presidente. No, il senso è questo qui. Noi vorremmo che il Parma finisse il campionato con i propri tesserati, e che fra l'altro hanno la possibilità di mettere in mora la società e quindi di svincolarsi, magari di non giocare più. Però quello che mi sembrerebbe giusto è che chi interviene, come ad esempio in questo momento il presidente Manenti, si faccia carico di tutto l'indebitamento del Parma e nei confronti di tutti i fornitori, di tutti i creditori, senza avere la possibilità di separare il ramo sportivo da quello tradizionale. Sì. Questa è una SPA che... Cosa che peraltro però nelle regole sportive in parte è contemplato, cioè il Parma non sarebbe il primo. Sì, ma io esprimo il mio parere, sì, sì, sì, da libero cittadino e anche da presidente di una squadra di calcio. Noi nel 2013 siamo entrati nel Cesena, che era terz'ultimo in classifica in Serie B, sull'orlo del fallimento e quindi sparire definitivamente. Ci siamo fatti carico di tutto l'indebitamento, che fra l'altro non era esattamente quello che ci avevano prospettato, perché è sempre così, c'è sempre qualche scheletro nell'armadio, qualche buco nero, certo. Ma sì, quando si entra in un'azienda succede, però con grande difficoltà stiamo facendo fronte a tutti gli impegni, e questo mi sembra il modo corretto di comportarsi, nient'altro. La Lega, adesso venerdì prossimo ci incontreremo, se avremo la possibilità tutti assieme di aiutare i giocatori del Parma, il Parma, nel rispetto dei loro tifosi e nel rispetto del settore giovanile, che ha una grande tradizione e i ragazzi non dovrebbero vivere queste situazioni, di fargli finire il campionato. Però ecco, al di là di quello, io credo che la società e il presidente Manenti, che si è preso questo incarico, devono far fronte per tutto. Quindi non è il discorso che se venerdì prossimo si deve votare per alzata di mano, chi ci mette la sua parte, facciamo finire o no, anche magari in deroga alle regole, il campionato al Parma, il Cesena vota no. Cioè lei sta facendo un discorso più ampio. Noi votiamo sì perché il Parma finisca il campionato, in modo che il campionato sia meno sforzato possibile. Anche anticipandogli qualcosa, per intenderci, che è poi il tema che è sul tavolo in queste ore. Voglio dire, è una goccia nel mare, perché oggi leggevo su un quotidiano nazionale molto importante che per far finire la stagione a Parma pare che ci vogliono dai 12 ai 15 milioni di euro. Così ho letto oggi. Sì, ci sono anche stime più basse, ma è il momento delle stime questo. No, però io le dico, a Cesena noi come costi di gestione ordinaria intendo, no? Spendiamo 2 milioni per tutto l'anno, quindi vuol dire 180 mila euro al mese, grosso modo 170 mila euro al mese, fra dipendenti, spese di trasferte, pullman, alberghi e quant'altro, il settore giovanile. Non mi sembra possibile che il Parma possa avere un costo di questo tipo per 3 mesi, perché il campionato finisce il 30 di maggio, quindi... Sì, sono 3-4 mesi, non di più. Ecco, facciamo sì, sono troppi soldi, insomma, si può fare si può andare un po' più in economia. E comunque sul ragionamento di base, il Cesena non necessariamente è all'opposizione. Piera, te? No, il Presidente ha ragione soprattutto, anzi sono contento che abbia precisato che questo distinguo non è certamente un atto di ostilità nei confronti del Parma o così, diciamo, di braccino corto, ma è semplicemente la giusta voglia di sottolineare che poi ci devono essere dei principi di economicità, perché se no il sistema calcio non funziona. Non può funzionare con le deroghe, non può funzionare con il distinguo, non può funzionare con le amnistie, deve funzionare con un sistema che funzioni, appunto. E quindi da questo punto di vista ha perfettamente ragione. Poi credo che la cosa più logica, più intelligente da fare sia quella di limitare il più possibile le spese di questa gestione straordinaria del Parma fino alla fine della stagione, dargli una mano, salvare la regolarità del campionato, cercare di trovare delle altre forme di reddito e aiutarsi da bravi fratelli con tutte le società di Serie A. Però il Presidente ha ragione, non deve diventare un precedente, non può diventare un sistema per cui chi più ha sperperato alla fine poi si trova sempre la soluzione e venga aiutato. E con tutto il rispetto, insomma, credo che i creditori non sportivi, quindi quelli che verrebbero tagliati fuori ovviamente dal piano B, che è il fatto di saldare soltanto i crediti sportivi. Ecco, i crediti sportivi, sa, pure loro hanno delle ragioni. Non è che se io faccio il catering al Parma Calcio non ho diritto, solo perché non scendo in campo, no, e non sono fisicamente decisivo affinché Gobbi o Lucarelli possa scendere in campo, no? Presidente, lei si è fatto un'idea del perché il Parma abbia potuto far mercato a gennaio? Ad esempio oggi leggevo, lei dice: noi non abbiamo comprato nessuno perché non potevamo permettercelo, il Parma si è rinforzato, poi ha continuato a perdere, ma questo è un altro discorso. No, fra l'altro noi abbiamo venduto, cioè noi abbiamo fatto proprio il contrario. Perché il Parma ha potuto fare mercato? Ma perché non c'è una regola che te lo impedisce. In Spagna esiste questa regola, tant'è vero che noi, finito il mercato, alla fine del mercato abbiamo preso Mudingai a 0 euro, perché in Spagna non lo potevano tesserare, perché se non hai i conti a posto non puoi prendere nessun giocatore in entrata. Da noi questa regola qui non esiste, tant'è vero che prima della partita che noi abbiamo disputato a Parma contro il Parma è arrivato Nocerino e i due giocatori spagnoli, quindi, cioè, voglio dire, sarebbe stata una partita tra virgolette truccata, perché se tu non paghi gli stipendi dei giocatori che hai in essere, poi ne aggiungi degli altri, e dov'è la correttezza sportiva? Non esiste proprio, ha capito? Sì, lei ha conosciuto Taci e Manenti, che sono il dopo Ghirardi? No, io non li ho conosciuti, no. Non ha mai visto Manenti neanche in Lega? No, è venuto una volta. No, perché venerdì scorso io ero fuori e quindi lì non ci sono stato e non l'ho conosciuto. Ho sentito adesso per la prima volta. Che impressione le fa? Perché poi si discute molto intorno a questo personaggio. Ma guardi, qui le idee possono essere diverse, però quello che conta sono i fatti. Se io prendo una società, intervengo con del denaro vero che viaggia rapidamente attraverso le banche, sia straniere che italiane, alla velocità della luce, quindi i problemi non esistono, sono tutte sciocchezze. Va bene, il CRO che non era un numero farlocco, quella è la realtà, che hanno toccato con mano i giocatori del Parma, quindi credo che qui ci sia ampio margine, perché gli organi preposti, e non mi riferisco solo a quelli sportivi, possono, debbero fare chiarezza su questi punti. Sì, abbiamo detto, c'è una storia da scrivere, da raccontare, e sicuramente verrà scritta non solo in ambito sportivo. Grazie Presidente. Prego, arrivederci. In bocca al lupo per il suo Cesena. Piera, abbiamo un paio di ascoltatori, se ti va. Luca da Genova. Luca. Sì, pronto. Eccoci. Buongiorno Giovanni. Prego. Luca Bizzarri. Luca Bizzarri? No, è Luca Bizzarri, no Luca Bizzarri da Genova. No. Sì, sì. Bizzarri no, è genovano, pardo. No, Bizzarri no, dai, genovano. Invece tu sei sandoriano. Io, ce n'è una squadra a Genova, sì. Giovanni. Quindi sollevato per il fatto che Mihajlovic ha chiesto scusa, si è accorto di aver un po' esagerato. No, no, ha fatto bene, perché quello lì è Gramoli. Ha fatto bene? Ha fatto bene, se ero io, anzi, in faccia se lo davo, un po' in faccia, Marigini. Se ero io, peggio. No, comunque se l'hai vista male, Regini. Prego, molto male. Luca. Molto male, Sinisa, bella testa. Giovanni, sì. Speravo che ci fosse, ci mancherebbe, tu sei un grande, però sì. Speravo che ci fosse Carlo, perché Carlo... Lui è grandissimo. Ha creato una specie di premio, i Gufi d'Italia, sì. Non so, virtuale. E io, se ci fosse un premio, vinco io, Giovanni. Stasera, prego. Lo posso dire? Quante... Forza Feyenoord. Poi? Perché la Roma non la sopporto. Sì. No, no, sto con tutte, sto con, va bene, la Fiorentina. Ah, tutte tranne la Roma. Non sopporto la Roma. Mi scat- Giovanni, però mi scateno, sono sincero, te lo dico. Sì. Pardo mi odia da oggi. Non sopporto la Roma, Totti... Il Vaticano, il Parlamento, quello che c'è di Roma. È una questione territoriale, hai capito, Pier? Grazie Luca, grazie Pier. No, no, ma io sono per il diritto, sono per il diritto assoluto alla gufaggine, sono proprio completamente, io da questo punto di vista sono d'accordo con Genta. Consentitemi di non gufare. Sì. E vi invito razionalmente a riflettere sul fatto che poi, dopo aver goduto come dei ricci perché la squadra che non sopporti perde in Europa, e poi fai una valutazione successiva e dici che forse il calcio italiano ne esce peggio, ma in assoluto ribadisco, se uno è tipo a stasera il tifoso della Lazio, ma che deve rifare da Feyenoord, così come il tifoso della Roma ti farebbe Feyenoord se ci fosse Feyenoord Lazio. Certo. Non è che vogliamo cambiare o sterilizzare i gusti, le passioni del tifoso, ma questo non c'è neanche in Olanda. Stasera i tifosi dell'Ajax saranno tutti i tifosi della Roma o quelli del PSV Eindhoven. Quindi voglio dire, non è che siamo strani in Italia. No, però stasera sarebbe bello tifare tutto per le squadre italiane. Speriamo che passino 6 su 6. Sì. La Juve in Champions tra le 5 della Roma League. Questo credo che sia evidente, ma non è democristiano, è la verità, è la realtà dei fatti. Speriamo, c'è più lavoro, speriamo. Ci divertiamo, certo. Vediamo belle partite, recuperiamo il ranking, facciamo soldi. Vai a mangiare chissà dove. Ciao Pier. Ciao. A domani, ciao. Saluto Ivan Capelli, ciao Ivan. Buongiorno. Io non so se ti interessa se stasera gufi, tifi per tutte e cinque o se hai qualche antipatia. No, antipatia nessuna, devono passare tutte e cinque, il calcio italiano deve ritornare in auge, questa è la cosa primaria. Sì, in assenza della Ferrari che aspettiamo ad altissimi livelli, almeno abbiamo qualcosa con cui consolarci. Oh, ti leggo Ron Dennis questa mattina, categoricamente dico che quello di Alonso non è stato un problema elettrico, Fernando ha preso un doppio colpo al casco da entrambi i lati, è rimasto incosciente per alcuni istanti, io non sono un medico, ma non vedo motivi per i quali non possa correre a Melbourne il 15 marzo, quindi stiamo tranquilli, è tutto chiaro, o no? No, secondo me no, perché troppe cose che sono andate a diciamo così dare motivo di dubitare, il colpo di vento che fa uscire una vettura, per carità, ci sta che il vento possa dare fastidio a vetture così sofisticate dal punto di vista aerodinamico, ma che addirittura riesca a velocità bassa, peraltro perché Fernando era appena uscito dai box, non è che stava girando e aveva già fatto i giri in successione, quindi avesse preso un ritmo elevato, ma era il primo giro che passava dalla curva 3 e lì si passa al primo giro con gomme fredde a 150-160 km/h, non posso pensare che sia arrivato un colpo di vento così forte. Detto questo, anche in quello che poi è successo poi, la dinamica, l'analisi, la grande omertà che c'è stata nei primi 3 giorni, non dire nulla, e poi soprattutto uno più uno fa sempre 2, no? Vale a dire, se adesso la McLaren in queste prove dichiara peraltro che cambia l'MGU K, il KERS, quindi e utilizza quello del 2008 e non quello che ha preparato la Honda. Sì, qualche dubbio viene. E beh, alla fine metti insieme tutti gli elementi e proprio fuori da ogni logica non siamo. Sì, poi viene da chiedersi perché sia una verità inconfessabile, se è stato un problema della parte elettrica, se è stato un qualunque guasto, perché non dirlo? Ma allora, prima di tutto bisognerebbe dirlo subito anche per mettere in allarme le altre squadre, perché se fosse veramente così il problema è serio ed è per questo motivo che credo che ci sia questo tipo di silenzio sul fatto, perché comunque si è creata una falla o comunque c'è nel sistema di sicurezza di questa power unit con questi motogeneratori, c'è qualche cosa che non ha funzionato. e a due settimane dalla prima gara pensare che la FIA possa dare delle informative tecniche e far modificare degli aspetti tecnici all'interno non di questo... Non c'è tempo per farlo. Non c'è tempo per farlo e si rischia veramente di avere dei problemi. E quindi è facile tenere tutto sotto tono, cercare di dare delle spiegazioni fumose e poi trovare una soluzione, anche se le notizie di questi giorni sono peraltro che la FIA, cioè la Federazione Internazionale dell'Automobile, ha aperto un'inchiesta su questo incidente, quindi alla fine una risposta ufficiale ci sarà. Speriamo anche che sia la risposta che corrisponde alla verità. Io do 30 secondi ad Antonio da Udine per fare la sua domanda. Antonio, buongiorno, saluto. Prego. Ivan, che mi conosce bene. La mia considerazione è questa: tragedia o mistero Alonso? Perché al colpo di vento non ci crede nessuno. La Power Unit, il motogeneratore cinetico, dicono che non abbia avuto problemi né di carattere magnetico né di carattere elettrico. Allora cosa resta? Resta il problema Alonso a questo punto. Cioè Alonso, per qualche istante, il fotografo Vidal, che era un metro dalla macchina, adesso per 10 minuti lo hanno sollecitato e non rispondeva. I meccanici McLaren ai box sollecitavano via radio, sì, e non rispondeva, e questo resta ancora un mistero nel mistero. Io non so se tu ti aspetti di vederlo in pista a Melbourne, Ivan. Fernando Alonso, dal punto di vista fisico, è sicuramente uno dei piloti più preparati, non perde occasione per allenarsi, io lo conosco molto bene, tante volte abbiamo giocato a pallone, giusto per fare riferimento da dove siamo partiti in questo collegamento, nelle nostre partite di beneficenza, so benissimo quanto è preparato dal punto di vista fisico e non posso credere che abbia avuto un malore o che abbia avuto problemi nell'impatto contro il muro, che non è stato particolarmente violento. Oggi peraltro è uscita anche un'altra fotografia dove si vede il cofano motore dal lato sinistro della McLaren con un alone nero anomalo, come se ci fosse stato una vampata di calore dall'interno che è andata verso l'esterno, una volta di più a fomentare quelle che possono essere analisi di qualsiasi genere. Certo è che o dal punto di vista elettrico o dal punto di vista di gas che possono essere arrivati da batterie, dal motore, dalla pavione, comunque qualche cosa è di anomalo per il pilota è accaduto, questo è sicuro. Grazie Ivan Capelli, ci fermiamo qui. Domani, dopo il GR delle 14, torna Carlo Genta. Ciao. Assassini furtivi camminano nell'ombra, creature leggendarie esercitano poteri impareggiabili, attaccano in silenzio, penetrano il buio, ispirando terrore e superstizione. Questi guerrieri spaventosi sono i gufi, la morte con le ali.